Obiettivi e caratteristiche dello schema. Lo Stato islamocratico diventa realtà storica quando nell'arena internazionale entra un'entità sociopolitica governata dalla Sharia. La Sharia, oltre ad avere la funzione di fornire la struttura politico-giuridico-amministrativa a una comunità di musulmani presente su un territorio, ha anche quella di edificare un ambiente socioculturale nel quale le virtù possano fiorire e i vizi non abbiano le condizioni oggettive e soggettive di nascere e di diffondersi. A tale scopo, la Sharia promuove tutti i fattori che favoriscono il bene, che è la base della sicurezza sociale e dell'ordine morale, e stabilisce precise regole di prevenzione del male, che è la causa dell'insicurezza sociale e del disordine morale. La Sharia è lo strumento offerto all'uomo da Allah per la costruzione di una società ordinata, equilibrata e armoniosa, nella quale l'esercizio delle virtù è presente in ogni sfera dell'attività umana e nella quale non c'è spazio per il disordine, gli squilibri e il conflitto tra le parti sociali. La Sharia, infatti, promuove il bene e rimuove gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione con appropriati provvedimenti educativi e normativi. La Sharia divide le azioni in cinque categorie. La prima di queste categorie è la categoria delle azioni fard e wajib, che sono obbligatorie e per le quali la Sharia ha dato regole chiare e vincolanti. La seconda categoria è quella classificata come matlub, il cui compimento è raccomandato. La terza categoria è quella delle azioni mubah, che sono permesse, non essendoci riguardo a esse un espresso divieto. La quarta categoria è quella delle azioni makruh, per le quali non c'è un espresso divieto, ma che sono disapprovate. La quinta categoria è quella delle azioni haram, per le quali vige un espresso divieto.